Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, eccoci qui. Sono eccoci le 8:19. Questa mattinata dove qui, insomma, il bilancio dell'attentato ieri all'aeroporto Ataturk di Istanbul ancora aumenta, purtroppo. Sì, perché poi sui siti eravamo fermi a 32 morti, ma la voce di 50 continua. Non aiuta certo il fatto che le autorità turche, come sempre in occasione di questo tipo di terribili atti di terrorismo, diciamo, non è la loro prima preoccupazione, l'informazione è tutto censurato, quindi non lo sappiamo, però certo una strage terribile. No, ricordiamolo perché magari non tutti lo sanno, anche se Radio 24 sta aggiornando da questa mattina, ma c'è stato questo attentato, pare 7 persone, non 3, ma 7 persone sono penetrate nell'aeroporto di Istanbul e ci sono 50 morti, hanno iniziato a sparare con Kalashnikov. Nella prima area esterna ci sono due aree di controllo all'aeroporto, quindi i controlli sono effettivi e molto stretti all'aeroporto di Istanbul, quindi nell'area più esterna prima di entrare dove c'è già il primo controllo per andare poi ai banchi dell'area internazionale, oltre a sparare con i mitra sulla gente si sono fatti esplodere, perché alcuni di loro, ci sono anche le immagini, vedrete in televisione, che abbattuti dalle forze dell'ordine avevano delle cinture esplosive e si sono fatti esplodere. Sì. Tra l'altro, vedi, a proposito di informazione, lo so che non è la cosa più importante, ma anche i social network Facebook, Twitter in Turchia funzionano a singhiozzo, sì. Cioè il tentativo, come dire, di in qualche modo mettere un po' una cappa di silenzio per poi è la politica di Erdogan che lo allontana progressivamente dall'Europa, ma è la sua politica di forza del suo regime. Comunque vi terremo aggiornati, qualsiasi aggiornamento agenzia, noi come sapete siamo in diretta, in tempo reale, raccontiamo tutto. Allora oggi 29 giugno, facciamo breve con i santi, anche perché poi alcuni ascoltatori su questa cosa dei santi mi scrivono tutti i giorni dicendo non lo so, bisogna ragionarci, ma comunque oggi San Pietro e Paolo, è festa a Roma, l'unico altro santo che è uscito è Sant'Emma, che lo faccio con un pensiero rivolto alla nostra ex presidente Confindustria, Emma Marcegaglia, perché Sant'Emma di Gurk, questa contea, duchessa addirittura austriaca, è famosa perché regalò tutti i suoi beni ai poveri. E quindi c'è da riflettere. Tra i compleanni del giorno c'è solo quello di Giorgio Napolitano, il presidente emerito, ma quello di un ospite che avremo nel corso della trasmissione, e lo diremo quando non svegliamo nulla, sorpresa. Tante carambata. Notizie sui giornali, sempre le cose internazionali, però anche notizie rituali, sono sfoglie di giornale sulla classica contesa in ufficio sull'aria condizionata. E lo dico con tono più serio, attenzione, perché come vedete cambiare il codice penale con il cosiddetto femminicidio non interrompe affatto purtroppo lo stillicidio di uccisione di donne da parte dei loro compagni. La vicenda di ieri è terribile. Beh, soprattutto con l'ennesimo cliché, cioè aveva denunciato, lo sapevano tutti, nessuno ha mosso un dito e purtroppo ci risiamo. E la povera signora è finita nel congelatore. Sì. Allora, per quel che riguarda invece la Brexit, ieri è stata una seduta spettacolare, poi si dice che ci si annoia in queste riunioni dell'Europarlamento tutto burocratizzate. Ieri è stato uno spettacolo, insomma, intanto i protagonisti erano due: Nigel Farage, leader di UKIP, quindi la forza che più voleva la Brexit, che si è presentato un po' così altezzoso, un po'... È già l'uomo, cioè è abbastanza pieno di sé, come esatto. Dire. Però... Tra l'altro dice, viene intervistato dalla stampa, dice cose interessanti, ma intanto sentiamo Farage. Good morning! Good morning! Senti come viene accolto, no? Boo! Funny, isn't it? Funny, isn't it? All'inizio non riusciva a parlare, no? Ha dovuto intervenire Schulz a dire calmi. Poi dopo ha detto questa frase, sì, sentite. Thank you very much for that. Very warm welcome. How things have changed. Seconda bit. Vabbè, insomma, Schulz dice. Senti Farage, l'inizio di Farage. Well, thank you, Mr. Schulz. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union. You all laughed at me. Well, I have to say, You're not laughing now, are you? Cioè, dice 17 anni fa, quando qui ho detto farò una campagna per far uscire la Gran Bretagna, non ridevate, no, ridevate, no, ridevate. Adesso non ridete più. Sì, insomma, Farage oggi sulla stampa dice questa cosa, Oscar, sull'Italia. Sì. Dice: voi rischiate, voi Italia, siete un paese da 15 anni senza crescita, siete un paese non prospero. Mi pare che non per il fatto che Farage ormai è disprezzato tutto in Italia, non dica delle profonde verità che riguardano l'Italia. Del resto non si spiegherebbe perché, altrimenti... No? Non staremo approfittando della Brexit per tentare di forzare in tutti i modi le regole europee per sostenere gli asset di controllo delle banche italiane. Tutti i giornali anche oggi riportano voci secondo le quali ci sarebbe, confermate dal commissario Dombrovskis, si è aperta una trattativa tra la Commissione europea e le autorità italiane per vedere di rafforzare queste solidissime banche italiane con innesti di capitale in qualche modo orchestrati dal pubblico. Vedremo, ma come vedi, insomma, dice delle cose abbastanza vere. Beh, insomma, lancia questa. Noi lo chiederemo, avremo il vice ministro dell'economia Zanetti tra poco alle 8.40 con noi, e chiederemo anche a lui se davvero questa è una delle ipotesi. Però insomma, Farage che dice così sì, non per il fatto che lo dica Farage, il fatto che ieri Draghi è intervenuto due volte ieri, sia in Portogallo la mattina sia al Consiglio europeo pomeriggio, e in tre punti insomma, ha quantificato una stima insomma non proprio allegra dell'impatto sulla crescita europea e anche italiana di almeno mezzo punto in meno per Brexit. Ha parlato del rischio delle svalutazioni competitive e ha detto anche lui è il momento di pensare seriamente a questa cosa delle banche. E del resto pare che il Presidente del Consiglio ieri, incontrando tutti i giornalisti italiani in una lunga, un'ora durato incontro sia pure off the record con i giornalisti, ha annunciato quello che poi alcuni giornali, La Stampa, dicono, cioè c'è una svolta nella politica economica del governo. Il Presidente del Consiglio per la prima volta ci ha detto insomma, no, la priorità non è abbassare le tasse ma attrarre nuovi investimenti. Si parla di una no tax area per Milano e per Bagnoli a Napoli. Però non tagliare le tasse. Non tagliare le tasse. No, quello che dice Farage poi alla stampa, soprattutto ha detto non dobbiamo deludere i milioni che hanno votato per la Brexit. Cioè se ci fosse un governo britannico ora che si mette lì a negoziare, addirittura essendo un referendum consultivo, a non far iniziare la procedura per far uscire la Gran Bretagna, beh, come dice Farage, le prossime elezioni saranno ancora molto più interessanti a questo punto. Nel frattempo in Gran Bretagna però c'è una confusione totale, perché le nuove elezioni a cui punta Cameron, perché prima di allora lui dice nessuno denuncerà davvero con l'articolo 50 l'uscita della Gran Bretagna, Boris Johnson ieri ha detto che non le vuole fare. Nel frattempo Corbyn, che doveva essere l'interlocutore ragionevole europeista dell'Europa, è travolto dal fatto che l'80% dei suoi parlamentari lo ha sfiduciato, ma lui non si vuole dimettere. Un paese nel caos la Gran Bretagna. A Farage ha risposto in qualche modo Juncker, tutti dicono bah, gli ha fatto delle battute, ma guardate se avete l'occasione il video in cui Juncker risponde a Farage, ma lei a proposito cosa ci fa qui, visto ha la faccia, altro che battuta, ha la faccia infuriata Juncker, il presidente della Commissione Europea, sentite. We must respect British democracy. Sta parlando, partono gli applausi di Farage ironici e allora si arrabbia Juncker. That's the last time you are applauding here. È l'ultima volta che applaudi qui. Sì. Oh, ma io credo è stato il leone in aula ieri, ne ha approfittato per considerare una leadership un po' traballata. You were fighting for the exit. The British people voted in favor of the exit. Why are you here? Chiede proprio, ma perché sei qui? Hai fatto visto, la battaglia, hai fatto l'hai guidata, battaglia. Hai vinto, via, no? E sai che Farage in qualche modo risponde, perché alla stampa dice perché sto ancora in Europarlamento? Perché è importante che si resti a vedere cosa succede e che tutto sia fatto a dovere. Abbiamo vinto una battaglia, ma non la guerra. Però posso spezzare una lancia della ragionevolezza? Ieri questi toni vendicativi e duri Juncker li ha usati per consolidare la propria traballante leadership, perché in Europa ha molto criticato giustamente la capitale europea. Ha fatto esattamente come David Cameron quando ha lanciato il referendum. Secondo me, se siamo un po' più freddi tutti, invece di vendicarci con le battute e le sfide, conteniamo i reciproci danni economici, che dovrebbe essere la prima preoccupazione. Io mi preoccupo un po' quando vedo il mare a maldeggiare, però. Ma infatti, però, l'abbiamo detto, cioè che questa è stata un po' la reazione, ed è la reazione delle prime ore, la prima volta che si vedevano, si fronteggiavano, poi si spera che prevalga una sorta di realpolitik. Certo, c'è da registrare, caro Oscar, dalle agenzie, escono queste agenzie in pompa magna, Juncker ha fatto sapere che oggi incontrerà Nicola Sturgeon, cioè la premier scozzese, colei che invece vuole rimanere. Ieri il Parlamento scozzese ha votato, due terzi ha votato per dare un mandato alla Sturgeon, per ribadire in tutti i modi il fatto che non si ratificherà l'eventuale atto formale di notifica britannico, e il secondo che bisogna mantenere i rapporti più stretti possibili con l'Unione Europea. Ieri l'intervento del leader degli europarlamentari scozzesi in aula è stato salutato dall'Europarlamento tutti in piedi per 3 minuti con un'ovazione, perché lui ha concluso dicendo: noi non vi abbiamo deluso, voi amici europei non lasciateci soli. Comunque, se volete raccontarci gli umori, è importante anche, come dice Oscar, quello che sulla stampa viene detto, cioè che Renzi vorrebbe far passare la linea che viene data come la linea di Padoan, e cioè non è prioritario abbassare le tasse. So che detto così, immagino già all'8.00.24.00.24 la gente dice: ma no, ma come le tasse? Non sarebbe prioritario abbassare le tasse, ma attrarre investimenti stranieri. Questa è la perché priorità, dicono che della linea. L'elemento sarebbe anche: non premia più dirlo. Non premia più dirlo e non... Simpatico. Non è che non premia dirlo e non farlo. Oppure farlo a meno sbaglio. Non premia più dirlo. Non quindi noi meno. Non lo diciamo più. Cioè non vabbè. Premierebbe più l'effetto ti do 80 euro. Ma a proposito, una cosa, il bonus cultura, dove è finito? Doveva spuntare per le amministrative, per i diciottenni, il bonus, la tesserina, vi è arrivata a casa? Ditecelo, informateci. È comparsa, il bonus cultura, 500 euro per... Ottima domanda. Dove è finito? Come Matteo risponde su Facebook? Perché non c'è più da un mese e mezzo? Ma vuoi fare populista? Allora. No, vorrei sapere perché non c'è il retroscena perché? Di Maria Teresa Meli. Perché è il retroscenino, visto? È il trafilettino sul Corriere. Ma no, non l'avevano lavato con Perlana, si è ristretto. Questo, no, ma scusa, non fare pubblicità, peraltro, che non si potrebbe, però non è male. No, ma solo per quello, non fare battute. Non vorrei mica immaginare che a Palazzo Chigi stiano facendo un bilancio del perché hanno perso le elezioni. Non c'è stata la direzione, non le hanno mai perse. Questo è verissimo. Sì. Però c'è un uomo per il quale bisogna spezzare una lancia umana, forse, e cioè Massimo D'Alema, che ieri si è presentato a Ballarò e che in pratica si lamenta a dire: sì, ma qua parlate di rottamazione, ma alla fine l'unico rottamato qui sono stato e io. E lui la vittima, povero bimbo. Massimo D'Alema. Rottamare, non di rinnovare, cosa legittima, rottamare una classe dirigente che poi in definitiva si è ridotto al progetto di rottamare il sottoscritto, perché la gran parte degli altri non sono stati, si sono risistemati. Però devo dire, caro Oscar, D'Alema non è che riscuote magari la simpatia immediata di tutti. No. Però no. non ha forse tutti i torti, perché gli altri più o meno, cioè Bersani, Bersani, no? Beh, vabbè, ma non possiamo considerarlo rottamato, no? No, però no? Insomma, diciamo, fatica e sgomita per avere qualche titolo ogni età. Adesso vabbè, non vorrei dire. È in minoranza nel PD, insomma. No, però scusami, D'Alema nella parte della vittima, capisci? Non ci che, crede. Ma no, dai, è Dracula nella parte del chi ecco, dà il sangue ai malati. Ecco, ma no, ecco, ma non è più, cioè, D'Alema nella parte della vittima. Cioè, però detto questo, le contestazioni nel merito sono state radicali ieri sera da Ballarò. A parte che Giannini, io lo saluto, secondo me è stato un errore levargli la trasmissione, questa era la penultima puntata di Ballarò, ma comunque Giannini ha dato un altro begli argomenti al PD per farsi levare, però ha annunciato che lui al referendum voterà contro D'Alema e così via, cioè ha fatto una serie di considerazioni durissime. Io credo che gli facciano molto bene dalle risponde alla base del suo partito, magari mi sbaglio, perché credo che il suo partito voglia un dibattito aperto, anche la parte critica, però con questi toni finisci per fare, per così dire, un favore all'avversario. Alla base dei partiti non piace mai quando finisci per fare un favore all'avversario, magari mi sbaglio. Ricordiamo anche che nel frattempo si sta chiudendo le giunte di tutti i nuovi sindaci, compresi quelli delle grandi città di svolta, su cui i giornali stanno seguendo la vicenda. Rimane quella di Roma, che è forse la quella più importante, forse è un pochino anche la più indietro rispetto alle altre, sì, bisogna dirlo che è così. Comunque, tra poco, insieme alle vostre chiamate, se volete sulle tasse, la svolta sulle tasse, avremo il vice ministro dell'economia Enrico Zanetti, al quale chiederemo ovviamente questa storia delle tasse. Avremo anche Antonio Padellaro. Di chi sarà il compleanno? Però lasciami dire una cosa: la classe della regina Elisabetta, che incontrando il premier irlandese ieri, di fronte alla domanda dice: che succede? Il premier irlandese che dice: mio Dio, quanto quello succede? E lei le risponde: ah, I'm still alive. Sono ancora viva. Perdona, una battuta. Celebre, tra l'altro, battuta fantastico. Del film dei Cruz. Dei Cruz. Chi l'ha vista? Ancora viva? C'era questa, la vecchina che tutte le volte diceva: sono ancora viva. Io non lo so, viva. Ma ieri mi sono posto il problema. Ha visto il film, la regina Elisabetta? Perché se è un caso, è un caso. Ma insomma, non lo so. Però c'era questo tormentone nel film dei Cruz di questa vecchina che degli antenati che continuava a dire: I'm still alive. Sono ancora viva. Va bene, dopo la pubblicità, state con noi. Sono ancora viva! Eccola qui la battuta dei Cruz. Chissà se la regina Elisabetta si riferiva a quello quando ha detto al premier irlandese. Thank you very much. I'm still alive. Ma guarda che secondo me sì, perché l'ironia di questa meravigliosa sovrana, insomma, che io invidio, la Gran Bretagna, non sono monarchico, ci mancherebbe altro, però insomma ha una grandissima professionalità. Molti dei nostri presidenti della Repubblica, come sai, hanno fatto dividere e discutere, compreso quello di cui il presidente emerito, di cui oggi si celebra il compleanno, Giorgio Napolitano. La regina sotto le bombe naziste stava lì e sotto le bombe dei suoi elettori sta lì. C'è ancora, dice, anzi, avendo passato e scappato le bombe naziste, figurarsi I'm still alive. Insomma, però regina, secondo me lei l'ha visto il Cruz, io sono abbastanza ragionevolmente convinto. Va bene, allora caro Oscar, con noi, e per capire anche se le preoccupazioni che ci sono sul fronte delle banche, se c'è un cambio di linea anche del governo, come raccontano alcuni giornali, cioè non è più prioritario abbassare le tasse ma attrarre gli investimenti. E ripetiamo, dicono che, l'ha detto Renzi ieri in un'ora del colloquio con i giornalisti del Consiglio europeo. Anche se era un colloquio, scrive la stampa. Off the record. Cioè, se io ve lo dico, ma non scrivetelo, ma non virgolettatemi. E la stampa lo scrive. Beh, quando si dice off the record è così. Vi do l'input, ma non virgolettate. Non virgolettate. Chiediamo e chiamiamo in causa il vice ministro dell'economia Enrico Zanetti di Scelta Civica. Buongiorno, vice ministro, e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ecco, noi c'è anche Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, di cui possiamo svelare buon così almeno compleanno, Antonio. Dice così Oscar Giannino, dicono che oggi compia gli anni. Beh, io ormai mi sono ridotto con... la mia funzione di giornalista è solo questa, quindi almeno spero di non sbagliare, no? È il tuo compleanno, sì. Sì, è una trappola questa, però. No, non è una trappola, perché io non dirò affatto in che anno sei, in che secolo sì. Sei nato. Vabbè, non lo dirò. Giusto. I'm still alive, come direbbe la regina Elisabetta. No, si parla, vedete, si scherza, ma la questione è molto seria. Intanto, vice ministro Zanetti, questa linea le risulta, questa virata di Renzi, titola oggi la stampa, virata di Renzi, è ora di attrarre nuovi investimenti, non è prioritario abbassare le tasse, anche perché paga poco in termini elettorali. Lei, Zanetti, che dice? Ma no, paga poco se non viene riconosciuto, ma nell'istante in cui viene fatto ed è reso percepibile in modo adeguato, sinceramente abbassare le tasse paga anche in termini elettorali. Chiaro che nell'istante in cui concentri, come abbiamo fatto noi, gran parte della riduzione della pressione fiscale sulle imprese, in un'ottica proprio di rilancio della produttività, della competitività del paese, ecco, allora quello si paga meno piuttosto che mettersi a fare le dazioni direttamente sulle singole persone fisiche a più o meno a pioggia. Infatti, ad esempio, noi abbiamo sempre parlato di benedetti 80 euro, misura molto importante, ma la misura più significativa, veramente più dirompente del nostro governo, quella più in discontinuità rispetto al passato e più coraggiosa, in realtà è stata la misura che ha tolto 5 miliardi e mezzo di IRAP alle nostre imprese sul costo del lavoro, e che le imprese hanno sentito, stanno sentendo, hanno apprezzato, lo capiscono in modo particolare quest'anno che stanno chiudendo i bilanci 2015. Però è vero che quella è una misura che paga meno piuttosto che mettersi a dare un po' di soldi direttamente nelle tasche di singole persone fisiche. Ma quelle sono le misure di cui ha bisogno il paese, e restano priorità. I dettagli, cioè, ci dica qualcosa in più, perché si parla di due no tax area, una a Milano, una a Bagnoli, e appunto il non prioritario tagliare le tasse. Le risulta, cioè, questa linea è confermata? Questa della non priorità nel tagliare le tasse, negli stati in cui lei stesso mi sta dicendo che si ragiona di costruire delle no tax area, permettendo poi naturalmente tutti i vincoli che derivano da questo genere di ragionamenti nel rapporto con l'Europa, con i principi di concorrenza e libertà di stabilimento, è invece continuare a essere sulla logica della riduzione della pressione fiscale, semmai di incrementare ancora di più la centralità di queste misure in un'ottica appunto di fare imprese e quindi certo attrarre anche potenziali investitori dall'estero, perché si stabiliscono nel nostro paese. Non no, è però, un cambio però, Zanetti, di no, no, aspetti, no, no, ma noi non le vogliamo mettere difficoltà, anzi io spezzo una lancia fuori del fatto che lei dal governo dal primo momento si batte, per esempio, per levare l'iperprogressività delle aliquote IRPEF, in particolare quella aliquotona al 38% che scatta. Però i giornali riferiscono che sarebbe stato proprio il ministro Padoan a dire a Renzi: guarda, per fare l'intervento sull'IRPEF che tu volevi anticipare l'anno prossimo, perché in teoria nel 2018, guarda, le risorse, se vogliamo fare le cose sui prepensionamenti, che comunque costano un po', perché che si dica, qualunque formula, se vogliamo fare interventi di questo tipo sociali, allora già costicchia parecchio intervenire sull'IRPEF. Allora, mentre l'attrattività, a quel punto l'attrattività, la non taxare riguarda le imprese che vanno lì, che vanno a Bagnoli e che vanno a Milano, non sono interventi universali. E solo per capire, non c'entra la polemica, perché io posso immaginare che ci sia un focus sulle priorità delle risorse, visto che il deficit non si può sfondare, anche se poi Renzi pare che stia trattando ancora per i margini. Però ecco, siccome è attribuito al tesoro, ecco questa linea. Allora, al tesoro in questi giorni viene attribuito di tutto, di più, ad esempio sulle banche, dove si parla di piani da 40 miliardi, tutte cose che vi posso assicurare sinceramente non stanno in piedi. Quello che sta venendo fatto è, come dicevate voi, una sorta di ragionamento più stringente rispetto a un ultimo periodo, a mio avviso, un attimino troppo collassante, su quello che devono essere le priorità, cosa che peraltro proprio noi abbiamo chiesto ripetutamente nelle settimane scorse. E queste priorità, a mio avviso, non vengono stravolte. Il ragionamento rimane quello di una concentrazione della pressione fiscale anzitutto, appunto, in un'ottica di attrazione di investimenti, competitività del paese, del sistema imprenditoriale, in un'ottica, appunto, di maggiore attrattività dell'Italia, e poi naturalmente anche gli interventi che riguardano invece l'IRPEF e quant'altro. Sì. Cioè, in realtà è più che una virata, direi che è un sano ritorno a quell'agenda molto precisa e molto seria che ci eravamo dati, che è partita nel 2014 con l'IRPEF per i lavoratori dipendenti, 2015 l'IRPEF per le imprese, 2016 la prima casa degli italiani, 2017 l'IRES, 2018 c'è un ritorno alle logie, un intervento più complesso, un ritorno a una un decalage realistico. Poi è ovvio che se si riesce a fare di più è ancora meglio, ma in questa fase dire facciamo nel 2017 tutto quanto, sì, le pensioni, anticipazione delle pensioni, l'IRES, l'IRPEF, onestamente è difficile, è improbabile, non è realistico. No, ma interessante. Non vuol dire è escluso. Io vorrei... Che si torna a un linguaggio in cui io mi ritrovo di più. Ah, va bene. Vorrei coinvolgere Antonio Padellaro, perché sì. Padellaro, al di là della discussione tasse, eccetera, ci si chiede, e Zanetti ci ha fatto capire che anche tutti i discorsi sulle banche salvate dallo Stato sono tanti discorsi che vengono buttati lì. Per il momento non c'è niente di concreto, ma si parla molto. Notiamo la differenza. E si scrive. Le fonti del tesoro in realtà parlano con la precisione di Zanetti. Visco sui giornali becca i titoli perché dice bisogna utilizzare qualunque sistema, cioè la Banca Italia lo dice in tutti i modi che vuole che lo Stato rientri nelle banche, il tesoro, il governo no, quindi facciamo questa distinzione. Banca Italia è sempre stata contraria ma io comprendo chi è nel sistema bancario e che chi è con compiti di vigilanza nel settore bancario, l'ultima cosa che adora è un sistema che mette tutti davanti alle proprie responsabilità, perché non arriva a mammazzare. Andiamo a Padellaro. Padellaro, ma che cosa rischia l'Italia? Perché oggi c'è Farage sulla stampa che dice voi non crescete da 15 anni e l'Italia rischia, è un paese non prospero, questo è il giudizio impietoso di Farage. Cosa rischiamo, Padellaro, secondo te? Ma intanto io osserverei che Farage dovrebbe stare attento a quello che dice, visto che ormai è palese, ormai è conclamato che ha ingannato gli elettori che hanno votato per l'uscita dalla Brexit, sparando cifre a casaccio, dicendo che ci sarebbero stati risparmi di non so quanti miliardi di euro, cosa che invece poi ha dovuto ammettere non è possibile. Quindi stiamo parlando di un personaggio totalmente inattendibile, che ha insieme ovviamente al Premier Cameron, che passerà nel libro che spero verrà scritto sulla storia della stupidità politica, con uno dei Premier più politicamente stupidi che ricordiamo, che saranno ricordati, quindi ecco, quello che dice Farage non è... Lo mettiamo così, diciamo, lo mettiamo, scarsa attendibilità. Scarsa, punto primo. Punto secondo, bisogna, invece io apprezzo, diciamo, la sincerità per la prima volta, diciamo, non so se per la prima volta, ma certo in termini molto chiari del vice ministro Zanetti, il quale finalmente ci sta dicendo quello che da anni aspettavamo che il governo ufficialmente ci dicesse. Cioè, attenzione, qui non c'è da scherzare con i nostri conti, la pressione fiscale non diminuisce, non può diminuire, lui parla così in maniera raffinata, decalage, eccetera, ma è evidente che se non è zuppa è pan bagnato. Qui siamo di fronte a una situazione molto seria sulla quale gli annunci non servono. Terzo, è evidente che soprattutto dopo l'uscita della Gran Bretagna l'Italia avrà dei problemi in aggiunta a quelli che ha dal punto di vista dei nostri conti. Io però, se permettete, vorrei approfittare della presenza del vice ministro Zanetti per chiedergli che fine faranno quegli 80 euro che sono stati chiesti indietro a non so quanti contribuenti italiani, quanti cittadini italiani. Perché ma quali, Padellaro, quelli che hanno superato i 26.000 euro credo che dovranno restituirli, gli incapienti forse, cioè, d'altronde se hanno superato. Sì, no, siccome abbiamo sentito che dire, non da Zanetti ma dai suoi colleghi di governo, che questa assurdità, che questa oscenità verrà in qualche modo risolta con accorgimenti tecnici, se potesse, visto che vediamo, insomma, ci sono molte persone all'ascolto, magari interessate, ci potesse dire con il linguaggio, per cortesia, della verità, che questi 80 euro... Zanetti, dovranno restituire quelli che hanno superato i 26.000 euro lordi? Allora, guardi, tre cose. Uno, auguri di buon compleanno naturalmente al direttore Padellaro. Due, io non ho affatto detto che la pressione fiscale non diminuisce, altrimenti avrei detto una falsità. Ho detto che rientriamo in quell'ordine di priorità di interventi su base quinquennale che già adesso, comunque nei tre anni passati, IRPEF, IRAP, TASI, hanno prodotto un abbassamento della pressione fiscale che è tornata sostanzialmente ai livelli del 2010. No? Anche la CGA di Mestre, che fa il giorno della liberazione fiscale, cioè il giorno in cui si smette di lavorare, ha collocato questa giornata nel 3 giugno, l'anno scorso era il 7, l'anno prima era l'11, il 3 giugno è l'equivalente del 2 giugno del 2010, quindi abbiamo già riassorbito in questi tre anni la punta massima che si è avuta tra il 2012 e il 2013 per le note vicende e siamo tornati ai livelli di un anno, il 2010, dove non c'erano lettere della BCE, non c'erano sovranità limitate. C'era un governo composto da gente che oggi ci dà le elezioni, ma evidentemente quando stava lei quel livello lo riteneva comodo. Chiarito questo, continueremo ad abbassarlo. Gli 80 euro. In un'ottica, ripeto, di concretezza e serietà. Che vuol dire facciamo questo, poi questo, poi questo, poi questo, piuttosto era contratto assieme. Per quanto riguarda gli 80 euro, il meccanismo, come si sa, ha prodotto in dichiarazione per 1.600.000 di italiani la possibilità di fruire di ciò che ancora non era stato dato in busta paga mese per mese. Per 1.400.000 invece il meccanismo inverso, cioè avevano ricevuto qualcosa che poi a conti fatti li vedeva collocarsi fuori dall'intervallo tra gli 8.100 euro di reddito e i 26.000 e quindi devono restituirlo. Di questo 1.400.000 ce ne sono 250.000, 245.000 se non sbaglio, che devono restituirlo perché sono andati sotto anziché sopra. Situazione sicuramente però gli incapienti. Più complessa, però il meccanismo normativo era quello per il semplice fatto che questo intervento aveva come obiettivo portare a zero. Insomma, li devono restituire, però ci sta dicendo che li devono restituire, vice ministro, per la legge li devono restituire. Beh, per la legge li devono restituire, dovremmo fare, perché questo non accada, un intervento normativo, ma io francamente non vedo perché dovremmo fare questo tipo di intervento normativo, avendo deciso di fare con gli 80 euro una misura che non era una misura, poi può piacere o non piacere, a me convince, non era una misura di natura sociale, era una misura di natura economica, cioè azzerare il cuneo fiscale, noto problema del nostro paese, sui redditi. Ma dove è già zero è a zero. Oscar, anche qui bisogna restituirli, questa è un'altra cosa. No, non posso dire che sono sbalordito. Ringraziando la sua cortesia il ministro Zanetti, Io sono sbalordito dall'apprendere che 200.000 persone, e le abbiamo visti in televisione parlare, persone che spesso veramente hanno dei problemi seri di sopravvivenza, devono prendere e restituirli tutti insieme. Ministro Zanetti, non è normale questo, è inutile che tentiamo di normalizzare una cosa che, ripeto, è oscena da tutti i punti di vista, e mi dispiace che non vengano annunciati provvedimenti di, non dico di sanatoria. Che vuol dire la legge è questa? È una legge fatta con i piedi. Lei deve dire: questa legge è stata fatta con i piedi perché non è stata prevista una ingiustizia assoluta. Allora, se posso su questo, allora innanzitutto vorrei ricordare che la restituzione per intero, nella misura in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, non c'è, perché si restituisce da giugno fino a novembre, quindi in più tranche. Se non c'è la dichiarazione dei redditi, si restituisce in due volte, lo si è già fatto tra febbraio e marzo. Questo tipo di misura, se ci saranno altri che porteranno avanti questo tipo di istanze, le si valuterà. Io ho spiegato qual è il nostro punto di vista. Se mi si vuole dire che era possibile scrivere in modo diverso questa misura che toglie 960 euro di IRPEF ai lavoratori, che naturalmente però IRPEF la pagano, vi dico si poteva fare, non è stato fatto. Sì. Oscar, qui però sulle banche bisogna capire, cioè se Zanetti ci ha detto che sono tutti elementi che però vengono detti sui giornali, ma non c'è niente di concreto, però l'allarme c'è, quanto concreto può essere? Qui bisogna capire. Questo chiediamo a Zanetti, perché io, sai, sono portatore di una linea molto minoritaria anche in questo gruppo editoriale. Ieri ho sentito a Radio 24 dichiarazioni nelle quali si annunciava che è meglio nazionalizzare le banche italiane perché i francesi e tedeschi ce le vogliono portare via. Io credo che in tutto questo ci sia una pervicace difesa degli assetti di controllo attuale delle banche italiane, e non mi convince per niente, non mi convince l'atteggiamento di autocopertura dei regolatori italiani, Banca d'Italia e Consob. Sono un rompiscatole, la penso così. Quando leggo che il governatore della Banca d'Italia dice esplicitamente che bisogna utilizzare tutti gli strumenti, preferisco il Tesoro, che dice si tratta ma non si violano le regole europee. Ci mancherebbe che l'Italia, di fronte alla Brexit britannica, mette sul tavolo la debolezza delle proprie banche chiedendo altre deroghe, ma questa è la mia opinione, lo sapete, però spero che Zanetti in questo mediato distingua tra il Tesoro, che dice delle cose e apre una trattativa su un problema serio, su quello che si può fare, rispetto ad altri atteggiamenti delle autorità finanziarie che mi lasciano abbastanza senza Zanetti parole. È possibile violare le norme europee in caso di crisi sistemica, che speriamo non avvenga, a salvare le banche? Pubblicamente. Allora, violarle ovviamente no. In caso di crisi sistemica è previsto, mi pare, nell'articolo 32 stesso della direttiva, che ci possano essere delle deroghe naturalmente, che devono essere appunto concordate sempre in un quadro europeo, e quindi non ne costituirebbero in alcun modo violazione. Ora però, prima di pensare di essere in questo contesto, ce ne passa. È ovvio che, essendo una situazione in questo momento prima ancora che delicata, una situazione con difficili esiti previsionali sia sulla durata delle tensioni, sia sulla quantità, perché è una situazione oggettivamente senza precedenti, è ovvio che si sta monitorando con grande attenzione questo è un conto. Far scrivere ai giornali 40 miliardi di iniezione pubblica nelle banche italiane. Ieri all'assemblea privata di Padova degli industriali, un amministratore di una banca veneta, non delle due tre volte, ha detto: chi fa scrivere ai giornali simili andrebbe perseguito, perché ci espone di fronte al mondo come se fossimo tutti in ginocchio. Questo è quello che penso io. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ringraziando il vice ministro Zanetti, ringraziando Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano per essere stato con noi. Auguri ovviamente. Ci spiace Giorgio da Modena, teniamo il numero di telefono se domani per lei va bene, la facciamo intervenire, ma oggi proprio non c'è spazio. E ricordate, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi, esatto, come la regina Elisabetta. Un abbraccio a tutti, a domani.